Cari amiche e cari amici, benvenuti, Radio Alma Brussellando e Marie D, Georges Laurent e Fiordaliso hanno il piacere di ritrovare questa sera, ringraziamo davvero Alessandro Baricco che è all'Istituto Italiano di Cultura e ci ha raccontato della sua sfida della scuola Holden. Alessandro, innanzitutto benvenuto a Radio Alma e a Brussellando. Grazie di avermi invitato qua. E questo è un momento anche per tutti coloro i quali non hanno potuto partecipare questa sera all'evento, magari di parlarci un po' della sua scuola, come nasce e che cosa offre, quali sono i corsi che lei offre ai quanti desiderano ancora impegnarsi nella scrittura. Sì, la scuola è nata più di 20 anni fa, però da un anno ha cambiato sede, si è ingrandita molto, adesso prendiamo 150 studenti ogni anno. Dura 2 anni ed è una scuola di narrazione, non è esattamente una scuola di scrittura, ma è di narrazione. Sotto proprio recita così, si chiama Scuola Holden e sotto c'è scritto Storytelling and Performing Arts, perché è la cosa che noi insegniamo. L'idea che era già era quella con cui abbiamo aperto 20 anni fa è quella di formare i ragazzi come narratori e dopodiché allora loro accedono a tutti i mestieri della narrazione che sono moltissimi e diversissimi, perché un giornalista, un traduttore, uno che scrive libri naturalmente, uno che fa film, ma anche uno che lavora sul web, uno che fa un lavoro in un museo, sono tutti lavori di narrazione, fai fumetti. E la scuola incrocia tutte queste discipline qua, per cui rispetta poi anche una certa vocazione del ragazzo, nel senso che se tu pensi che la tua grande passione è il cinema, hai la possibilità di studiare più il cinema che altre cose, però sta nelle regole del gioco il fatto che tu cerchi di aprirti a tutte le grammatiche che ci sono, a tutte le tecniche che ci sono. Voilà, la scuola è a Torino e prende ragazzi tra i 18 e i 30 anni, abbiamo aperto le iscrizioni il 2 aprile, sono online, si entra nel nostro sito che è scuolaholden.com e si trova un application form, uno entra, scarica i suoi dati e poi se vuole fa questa specie di esame, diciamo di test, completamente online, ha 15 giorni per farlo da quando decide di partire. E poi ogni tanto ne chiamiamo qualcuno a Torino perché vogliamo conoscerlo meglio, perché non l'abbiamo capito bene, ma se no scegliamo su questo tipo di test. Una cosa che a me ha colpito tantissimo era il fatto che i giovani che vengono là, e non solo tanto i giovani, ma tutti, che hanno un assaggio di tutto e hanno la possibilità di scegliersi il sogno. E questa è una cosa che magari noi avremmo bisogno un po' in ogni area di attività, quindi vorrei che mi raccontasse un po' più di questo concetto tipicamente di questa scuola. Beh, quello è molto, molto pratico, cioè i ragazzi quando hanno 18 anni, 20, 22 anni, 25 anni, non è che sanno esattamente cosa vogliono fare da grandi. Anzi, quelli lì poi, quelli che amano quel genere di gesti, proprio non hanno idea, non lo sanno mai esattamente. Infatti sono quelli che in famiglia c'è il problema, no? Cioè mio figlio non sa cosa vuol fare da grande, non è che non sa cosa vuol fare da grande, lui sa benissimo cosa vuol fare, però non c'è un nome per quella cosa lì. Perché è un insieme di cose diverse, magari gli piace molto il cinema, però ascolta molta musica, gli piacerebbe fare qualcosa davanti a del pubblico, è un po' narcisista, pensa di avere un talento pazzesco a disegnare, e tutto questo non ha un nome, ma è non voglio fare il dentista, non voglio neanche andare a insegnare a scuola, no? E noi prendiamo questi qua, cioè quelli che non hanno un nome preciso per quello che... per il loro sogno, però semplicemente per il loro desiderio o talenti, e abbiamo 2 anni per cercare di mettere sotto gli occhi una mappa precisa dove loro possono trovare casa loro, e una volta che l'hanno trovata dargli tutti gli strumenti possibili per abitarci, costruirci le case migliori possibili. Questa era una domanda che veniva dall'Ungheria, un ungherese che ha imparato l'italiano e che si è letto tutti i libri di Alessandro Baricco. E che... Di sicuro ha superato Mejo. Di sicuro, perché li ha riletti in varie versioni, anche traduzioni diverse. Allora adesso la domanda è però, che mi pongo, è perché nasce questa scuola? Da quale bisogno, da quale idea nasce la scuola Holden? No, anche lì è molto naturale, cioè ci sono persone che fanno un gesto artigianale e lo fanno per mestiere, e da sempre questi qui hanno insegnato a quelli più giovani, cioè è normale, la bottega, l'artista che ha l'apprendista che arriva e cerca di rubargli i segreti e poi di fregarlo alla lunga, no? È normale. Si fa da un'infinità di tempo, è un'esperienza bellissima. Nella vita ci sono poche cose belle come insegnare o apprendere. E quindi quando, mi ricordo quando l'abbiamo aperta ci sembrava la cosa più naturale del mondo, pensare che non sono io e quegli altri che scrivevamo libri ne parlassimo con della gente più giovane, quelli che facevano cinema spiegassero a quelli più giovani. Quindi in realtà è un gesto molto naturale, ecco. Poi dopodiché è complesso, è difficile, bisogna capire come farlo, è un'arte. Però nel suo cuore è la cosa più semplice che c'è. Uno sa fare una cosa e insegna a un altro quello che ha imparato. L'altro impara e supera il suo maestro. Normale. Allora faccio questa domanda, anzi dico tre cose. Settimo Torinese, Eugenio Allegri, Gabriele Vacis. Eravamo giovani, era 20 anni fa. eravamo 20 anni fa e avevamo... probabilmente avevamo un'idea comune di cosa fosse una certa intensità o un equilibrio fra ridere e piangere, una certa idea di pubblico anche, e come succede magicamente nelle cose, è come quando una band fa una canzone che gli riesce, no? E poi per sempre rimane lì, mica sanno spiegare perché quella sì, l'altra no, sono quelle cose, sono costellazioni come quella del cielo, cioè sono le stelle, sono in quella posizione, fanno una figura e ti riesce. E così è andata quella volta lì. E anche lì vi siete scambiati e rubati le cose a vicenda nel processo che stavamo descrivendo prima. Ma lì eravamo piuttosto tutti e tre degli allievi senza maestri, un pochino orfani, diciamo. Ma ne abbiamo avuti, perché Gabriele ha avuto Grotowski, anche Eugenio ha avuto un sacco di grandissimi maestri di teatro. Io avevo studiato altro, ecco, forse ero quello più digiuno, perché in realtà avevo studiato altre cose, però avevamo qualcosa da dire che nessun altro diceva, cioè ci sembrava di essere altrove rispetto a quello che c'era intorno a noi, e quindi abbiamo fatto esattamente quello che bisogna fare sempre, e in particolare da giovani, cioè non aver paura a fare le cose come piacciono a te. E ogni tanto non incontrano il gusto del mondo, altre volte lo incontrano molto più di quanto tu pensi. Quello ad esempio per me era incredibile, me l'avessero detto allora che dopo 20 anni ancora lo mettevano in scena, non ci avrei creduto. Mi sembrava una cosa ben fatta, ma insomma così l'avrò scritta in 3 mesi, ecco. Loro l'ha messa su in 2. E lo spettacolo era fatto con un velo, un faro, una pedana, un pianofortino grande come una frittata. E spacchi il mondo così, succede. Rossellando raccoglie tutti i martedì tanti scrittori, ne abbiamo ormai intervistati tanti negli anni, e ne abbiamo sia di affermati, ne abbiamo incontrati sia di affermati che di debuttanti, però se dovesse affidare ai nostri microfoni un suggerimento per quanti vogliono cominciare l'avventura della narrazione, che cosa si sentirebbe di dire? Che lo facciano, basta esitare. No, bisogna farlo e se sei nato per quello, niente, ti ferma per strada. Se qualcosa ti ferma per strada, non sei nato per quello. È come mi dice il mio maestro di pianoforte, quando io gli dico, ma questo proprio non riesco a farlo, e lui mi dice, perché non sei nato per farlo? Esiste anche questa cosa, non è che... Quindi... Però bisogna provarci. In generale io la gente non dico lascia perdere, che tanto è complicato, ma non nel senso che devono venire alla scuola, o no, me lo faccio nel modo che vogliono, però insomma bisogna provarci. Beh, l'ultima domanda allora proprio su questo aspetto. Un giovane arriva alla scuola Holden, però capisce che la strada è altra. È successo, credo che sia successo agli allievi della scuola Holden. E allora qual è il ricordo o qual è ciò che rimane a loro della scuola Holden? Anche se credo già di conoscere la risposta, perché ci è stato detto molto. Ma alle volte una moglie, un marito, bambini. Però devo dire anche la verità che quelli che entrano alla scuola Holden con un'idea precisa e che escono con quell'idea precisa sono pochissimi. Molti cambiano idea per strada. Però molti cambiano nel senso che pensavano di fare fumetti e poi si scoprono che fanno serie televisive. non avevano idea di cosa fosse il mondo del web, scoprono il mondo del web, si appassionano e vanno a finire lì. Mai gli erano venuti in mente di tradurre nella vita e diventano i traduttori migliori d'Italia. Ma magari era entrato pensando di scrivere libri. Quindi questo avviene per la maggioranza di loro, appunto perché entrano con dei sogni indistinti, magari con una leggera inclinazione, no? Entrano da una porta, mi piace la musica, track. Però anche analogamente ci sono alcuni nostri allievi, neanche pochi, considerato che noi non siamo una scuola di musica, che fanno i musicisti nella vita. E sono entrati che volevano probabilmente scrivere un libro, lavorare per il cinema, chi lo sa. Adesso fanno canzoni, band. Quindi sì, cambiano idea, ma sono pochi quelli che cambiano idea, nel senso che, anzi forse non ce n'è. Ci può essere qualcuno appunto che, ma spesso sono ragioni di vita, cioè comunque gli è piaciuto, tutto bello, però torno a fare l'avvocato nello studio di mio padre. Boom. Succede mille cose. Oppure provi, poi dopo un po' vedi che proprio non riesci a sfondare, allora dici vabbè, dai, facciamo altro. Però nella maggior parte dei casi si tratta di cambiare semplicemente zona di quella mappa, ma rimanere dentro la mappa. Quantomeno uno non può dire a se stesso di non averci provato, in modo serio. Sì, poi rimane l'esperienza, rimangono 2 anni speciali nelle loro vite sempre, gli rimangono dei legami con compagni e professori che sono legami per sempre quasi. E poi tanta roba che ho immagazzinato di tutti i tipi. E quindi certamente non hai buttato via il tuo tempo, ecco. L'ultima domanda è per chi volesse iscriversi alla scuola, ed è: non abbiate paura, nel senso che sì, la scuola ha un costo, però c'è un modo di avvicinarsi alla scuola anche se non si hanno, diciamo, i mezzi finanziari immediati. La scuola costa perché è una scuola privata e dà moltissimi servizi, una scuola in cui c'è una proporzione fra allievi e insegnanti paradisiaca, nel senso che ti trovi a lavorare veramente in gruppi piccoli con insegnanti che sono bravissimi, in cui hai un sacco di servizi digitali, ti diamo un computer, cioè anche per questo costa. E poi naturalmente però qualcosa bisogna fare per renderla più accessibile possibile, e quello che la strada che noi abbiamo scelto è questa del prestito d'onore. Tecnicamente è semplice, tu ti fai prestare i soldi tramite noi, nel senso che ci pensiamo noi a questa pratica, tu poi ti fai tutte le carte, ma abbiamo trovato una banca che lavorasse con noi e che fosse disposta a prestargli questi soldi a un interesse bassissimo, oggi attualmente del 3%, e loro hanno 8 anni per restituire questi soldi dopo la scuola. Non devono farlo subito, prima fanno la scuola, poi quando escono dalla scuola devono incominciare. Naturalmente se poi diventano ricchi li possono dare tutti in grano. E la cosa importante di questo prestito è che i ragazzi non devono dare delle garanzie, perché le banche non prestano soldi a uno che non dimostri di poter pagare, mentre invece questo noi glielo facciamo saltare perché le garanzie le diamo noi, e quindi loro possono essere, sono liberi da questo vincolo, diciamo. Siamo a Bruxelles, ricordiamo che è possibile iscriversi anche in qualità di studenti stranieri. Eh sì, questa è una scuola che deve diventare internazionale. Il primo anno ci siamo concessi di farla solo italiana, dal secondo, che è quello che arriva, per cui sono aperte le iscrizioni adesso, o no, dobbiamo incominciare assolutamente a avere allievi che vengano da ogni parte del mondo, perché è così che si fa a scuola, anche per scambiare tipi di esperienza, tipi di civiltà. Non possiamo che guadagnarci nella crescita della scuola, e quindi ci diamo da fare per cercare di far conoscere la scuola dappertutto. Un saluto agli amici e agli ascoltatori di Radio Alma e di Bruxellando. Venite a scuola, no, questo magari, no, vabbè. Intanto godetevi sta radio, poi se un giorno vi cresce del tempo noi siamo là. Alessandro Baricco, la ringraziamo tanto, in bocca al lupo, e speriamo, chissà, magari le nostre strade si rincroceranno. Speriamo, perché no? Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Bruxellando, e come annunciato martedì scorso siamo onorati, Marie D e Georges Laurent. E Georges Laurent, molto onorati di avere con noi uno dei protagonisti del cinema italiano. E quando capirete il nome capirete anche il perché oggi siamo in compagnia di Renzo Rossellini. Rossellini, benvenuto a Radio Alma Bruxellando e a Bruxelles. Grazie a voi e saluti ai vostri ascoltatori, che, ai quali voglio bene uno per uno. Ah, grazie, questo è un bellissimo messaggio di apertura. Renzo, lei è regista, direttore artistico, sceneggiatore, produttore, nonché figlio d'arte, figlio di Roberto Rossellini e Marcella De Marchis, scenografa e costumista. E la sua famiglia è stata impegnata in tante arti, diverse arti, tra cui il cinema, probabilmente quella con la quale tutti gli italiani la raffigurano immediatamente. Eppure non sempre i figli seguono quello che è il cammino dei padri, quindi ci viene naturale chiederle come nasce la sua passione per il cinema. Nasce come... io ho cominciato a fare cinema come aiuto regista in Francia durante il periodo della Nouvelle Vague, ma erano gli stessi anni in cui mio padre stava preparando un film da girare in Italia dopo, perché era stato per 2 anni a fare un film in India, e chi doveva essere il generale della Rovere, quello con protagonista Vittorio De Sica, e mio padre mi ha chiesto di essere suo aiuto regista e regista della seconda unità, e da lì è cominciata, diciamo, la mia collaborazione con mio padre nel 1959, che poi verso vari ruoli è continuata fino al 1977, l'anno della morte di mio padre. E ho fatto prima il suo aiuto regista, regista della seconda unità, e poi sono diventato il suo produttore per molti anni. Grandissimo, lei è stato sicuramente tra i protagonisti del cinema italiano. Se guardiamo alla sua produzione cinematografica, ha collaborato con i nomi più importanti, non so, c'è Fellini, Scola, Antonioni, Bellocchio, insomma tanti altri. Allora, di fronte a questa sua esperienza, io volevo sapere come è cambiato il cinema degli anni, e faccio riferimento anche, se vuole, al documentario Cinema Anno Zero, insomma, dove qualche commento lei l'ha fatto. Ma siete ben informati, bravi. Ma insomma, io che cosa, come è cambiato il cinema? Quello che direi, stando qui a Bruxelles, nella capitale Europa, è come non è cambiato il cinema. Il cinema, noi siamo in Europa un paese grande 2,5 volte Stati Uniti e più Canada. Abbiamo 500 milioni di abitanti, quindi di potenziali spettatori cinematografici. E sembra che l'industria cinematografica non se ne accorta. Se l'industria cinematografica diventasse europea e non di ogni regione, noi avremmo una cinematografia molto più forte di quella di Hollywood. Saremo noi che domineremo nel pianeta il cinema, e non Hollywood con il suo cinema. E questa mancanza di organizzazione e di passaggio a scoprire che siamo in Europa, credo che sia una grandissima malattia dell'Europa e della nostra cinematografia. E allora, riferendomi a quello che appunto lei sta dicendo, che è un bellissimo messaggio, visto che adesso quest'anno dobbiamo eleggere il nuovo Parlamento europeo, quindi siamo a Bruxelles, siamo nel cuore dell'Europa, ed ha sicuramente ragione, è il mercato molto più grande di quello americano, di quello canadese messi insieme. Allora, secondo lei, qual è il problema? Noi crediamo, abbiamo parlato spesse volte in radio, che uno dei problemi sia la lingua. Lei condivide che sia la lingua il problema, o c'è qualcos'altro che ci impedisce di avere questo salto verso l'Europa? Ma la lingua ovviamente è un problema, perché se parliamo del mercato degli Stati Uniti più Canada, hanno una lingua in comune, l'inglese, anche diciamo nelle zone francofone del Canada l'inglese è comunque prima e seconda lingua insieme, quindi hanno questo vantaggio di avere una lingua sola. Ma noi in Europa accettiamo i sottotitolaggi, accettiamo in certi paesi il doppiaggio come in Italia, quindi fare un film europeo che nel suo paese d'origine esce con la sua lingua originale e va poi negli altri paesi degli altri stati europei, sottotitolato o in alcuni casi doppiato, permetterebbe, immaginatelo da un punto di vista economico, vi faccio questo esempio perché la grande forza del cinema americano sta che fanno un film, escono sul loro mercato in 1600 copie e il primo weekend recuperano il costo di film. Cioè, l'ultimo film di Cameron, Avatar, che è costato 600 milioni di dollari, ha recuperato il costo film più guadagno il primo weekend che è uscito. Immaginatevi un film europeo bello, fatto bene, intelligente, in cui che esce il primo giorno in ognuna delle capitali europee, delle 27 capitali europee. Avrebbe un recupero dell'investimento immediato e questo favorirebbe trovare capitali che con la voglia di investire nel cinema, perché il cinema diventerebbe molto rentable e creerebbe profitto e quindi svilupperebbe gli interessi degli investitori, cosa che così non è oggi. Solo gli stati finanziano i film perché è mal organizzato. Cioè, noi siamo un continente pieno di talenti cinematografici, non c'è paese dei 27 paesi che non ci sia, dove non ci sia un talento cinematografico, però abbiamo una struttura industriale rimasta agli anni 50, al dopoguerra. Non ci siamo accorti che è nata l'Europa. Vabbè, l'Europa è nata, poi veramente punto interrogativo, perché gli Stati Uniti sono nati il giorno che Thomas Jefferson Franklin hanno fatto la Costituzione americana. Cioè, la Costituzione è stato il via di principi fondamentali che hanno creato l'America, gli Stati Uniti d'America. Noi siamo un'Europa senza una Costituzione europea, una Costituzione che dovrebbe prevedere il rispetto delle varie culture, che siamo 27 paesi con dietro delle enormi storie ognuna, quindi il rispetto della cultura e quindi una Costituzione che metta la cultura della comunità europea al primo posto, non l'euro, sarebbe l'Europa. Quella che almeno io auspico, che sogno di vedere prima di morire. Questo mi sembra essere davvero un ottimo messaggio, soprattutto da questa sede poi, insomma, di decisori politici come Bruxelles e come diceva Giorgio prima, in occasione anche del prossimo semestre di presidenza italiano, probabilmente questo potrebbe essere un bellissimo messaggio da inviare a chi decidere può. E purtroppo il problema del mercato unico è un problema che si ritrova in tanti settori, ma probabilmente quello della cultura è quello che viene un po' dimenticato, siamo un po' considerati come la Cenerentola tra tutte le varie professioni, mentre invece, come il cinema americano invece fa, si trasmettono valori, si trasmettono sentimenti, insomma il cinema è anche lo specchio della nostra società. E a questo punto volevo collegarmi proprio alla sua esperienza di insegnante, perché so che lei è stato insegnante tra l'Italia, gli Stati Uniti e Cuba, e se dovesse riassumerci brevemente questa sua esperienza, quali sono stati gli aspetti che più l'hanno colpita in queste tre diverse realtà? Io insegno soprattutto a fare cinema povero ma intelligente, non copiare Hollywood. Se le nostre cinematografie in paesi poveri, parliamo di Cuba, diciamo poverissimo addirittura, certo, pensare di fare film di milioni di dollari è una debolezza, anche perché bisogna diventare schiavi di un sistema che è quello capitalistico, si può dire anche la parola, anche se è una parolaccia ogni tanto. E quindi invece insegnavo a Cuba a fare un film con 50.000 dollari, quindi usare oggi col digitale è facilissimo fare un film a basso costo, l'importante è che sia un film intelligente. Cioè, il cinema del dopoguerra italiano che ha conquistato il mondo e che ha ridato un'immagine del cinema italiano nel pianeta era un cinema poverissimo, assolutamente, ma ricco di intelligenza. Deve essere ricco non in soldi ma in intelligenza, un film in valori, e questo ci farebbe quindi insegnare come fare un film, cinema povero da un punto di vista economico dell'investimento, ma molto ricco di contenuti di intelligenza. Questa è sempre stata la mia funzione da insegnante. E chi sono i più bravi? C'è qualcuno che l'ha stupito tra gli allievi, chi ha avuto... Pensiamo a Cuba, per esempio. Io in realtà che conosco poco, però ho molti amici cubani. No, guarda, cioè, ho scoperto tantissimi talenti, ma anche $50,000 a Cuba sono tantissimi soldi. E diciamo, per cui ho insegnato sopra... Ma, insomma, io insegnavo insieme a García Márquez a questa scuola di Cuba, quindi insieme abbiamo cercato di spingere a pensare. E abbiamo avuto tante ottime sorprese, non vi dico nomi perché sono tante, centinaia di sorprese, di intelligenze, di talenti poetici, di talenti creativi, insomma, e questo mi è capitato sempre, di trovare tra i giovani grandissimi talenti. Quindi la mia spinta ai giovani a fare: diventate, siate. Certo. Importante. Beh, la scuola di cinema ha prodotto, almeno quella italiana, ha prodotto molti talenti. Cito Lucchetti, Grimaldi ed altri, anche Procacci, mi pare che ci fosse. Domenico Procacci. Però Daniele Lucchetti. Anche, no, sì, no. Daniele Lucchetti, sì, assolutamente, l'avevo citato. Però vorremmo saperne un po' di più, perché lei ci ha parlato di insegnare il cinema, insegnare intelligenza. Se mi consente di cambiare una metafora, invece che giocare con i lustrini, giocare con i giochi che spingono l'intelligenza, giocate al Lego, qualcosa del genere, piuttosto che dipingere bamboline o altre cose. Però una cosa che ci interessa è anche sapere come oggi si può partire, visto che lei ha citato i $600 milioni di Avatar, come si può partire, se si può partire, con un cinema a basso costo. È ancora possibile in Italia partire con un cinema a basso costo? Che consiglio darebbe a chi vuole cominciare a intraprendere questa carriera? Questo mi porta a riparlare di mio padre. Roberto Rossellini ha cominciato a fare cinema quando l'Italia era piena di macerie, e con una grande pazienza, come se fosse stato uno spalatore di macerie, ha spalato macerie facendo cinema. Cioè, la sua pala era il cinema. Cioè, oggi ci troviamo nel mondo con una crisi economica che ha lasciato tantissime macerie, e tutte queste debris le possiamo spalare con la nostra volontà, con la cultura. Rimettiamo la cultura al primo posto, il sapere, la diffusione della conoscenza. Far conoscere, far sapere aiuterà a risolvere tutti i problemi, anche quelli economici. Non si possono risolvere i problemi economici senza sapere quali sono i problemi. Quindi descrizione del problema per trovare la soluzione al problema. Ma insomma, scusate, è una citazione maoista, ma ogni tanto si possono pure fare. Tra l'altro Monicelli diceva che la speranza è una cosa inventata dai potenti, al contrario bisogna agire. Sì, certo. Quindi... dare solo la speranza, ma insomma, Monicelli lo diceva da laico, no? Assolutamente, cioè, certo. La speranza è un al di là. Pensiamoci, noi da vivi pensiamo all'al di qua, e dobbiamo fare, avendo il ruolo di essere attivi nell'al di qua, non nell'al di un futuro al di là che esiste o non esiste, non abbiamo prove certe. Beh, d'altra parte, insomma, Dante ha messo chi non si muoveva, chi non agiva, nell'inferno. Certo. Quindi abbiamo già anche... I gnavi gnavi sono assolutamente i peggiori, stanno nell'inferno, però non hanno fatto niente di male, teoricamente, però in realtà è proprio l'assenza di movimento che li ha portati all'inferno. È una bellissima sorpresa sentire maestro Rossellini, se mi consente, parlare in un modo così aperto e chiaro di cultura, quella che noi nel nostro piccolo, con la nostra radio, stiamo spingendo ogni volta da 7 anni, ogni settimana da 7 anni, perché è quello in cui crediamo anche noi. Abbiamo iniziato il viaggio della radio 7 anni fa proprio come un viaggio e continuiamo a viaggiare immersi nella cultura, e quindi a me personalmente fa estremamente piacere sentire che questa cosa ha radici nel passato e quindi si proietta anche nel futuro, insomma è questo in quello in cui crediamo. Assolutamente sì, e quindi magari mi ricollego a queste nostre esperienze, perché come mi diceva lei proprio l'altra sera durante la sua serata alla Monte dei Paschi, è stato tra i fondatori di Radio Città Futura, una delle prime radio libere italiane, fondata nel 1975. Ci può raccontare brevemente da dove nacque quell'idea e cosa pensa lei oggi anche della radio, quindi di un altro strumento di diffusione della cultura? Ma io penso che io mi sono trovato a pensare di fare una radio mentre nasceva il terrorismo in Italia, e molti miei amici, allora ci chiamavamo anche compagni, li ho visti andare in verso questa orribile deriva del terrorismo, e ho pensato, per arginare questo fenomeno, di dargli la parola, di mettere a chi si voleva ribellare, dargli come vera arma la parola. Quindi ho creato una radio per arginare il terrorismo, e credo di esserci riuscito, tanto che anni dopo ho scoperto che le Brigate Rosse avevano deciso di ammazzarmi. Ho trovato in carcere di Roma quello quarto uomo del carcere di Moro, che mi ha parlato, mi ha detto: ti ho dovuto pedinare per tre mesi perché avevamo deciso di farti fuori, poi invece non l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che eri pericoloso provarci. Pericoloso perché due anni prima avevo avuto due attentati da parte dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari fascisti, e la questura di Roma mi aveva detto: siccome hai avuto questi attentati dobbiamo mettere una scorta. Io non potevo fare il direttore di Radio Città Futura con una scorta e poliziesca. Certo, assolutamente. No. E quindi ho rifiutato la scorta, allora loro mi hanno imposto di prendere un porto d'armi, e quindi avevo una pistola imposto dalla questura, perché loro si siano così scaricati l'idea, il fatto del... E quando Germano Maccari delle Brigate Rosse mi pedinava, si è accorto che c'aveva una pistola. Se uno c'ha una pistola, una fondina sta lì, certo. se uno la tiene in una cintura e non in modo militare, te la tocchi ogni tanto, ho paura che ti scivola lungo una gamba, e quindi te la tocchi. E quindi lui, pedinandomi per 3 mesi, si è accorto che mi toccavo sempre un bozzo che si vedeva da dietro la giacca, e ha capito che era armato. E allora, quindi, quando ha fatto la sua relazione di fine pedinaggio, ha detto: è probabilmente armato, e loro hanno deciso di non correre rischi perché dice probabilmente la saprà usare, e quindi non è così. Quella pistola, che non ho mai usato, mi ha salvato la vita. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente, abbiamo anche, diciamo, ci siamo proiettati anche verso il futuro. Brevemente, secondo lei qual è stata l'eredità di suo padre Roberto Rossellini nel cinema, non solo italiano, ma diciamo nel cinema, ecco, in generale? Ma io rivedo tracce di Roberto Rossellini, ovviamente, nel cinema francese della Nouvelle Vague, che è nato da Roberto Rossellini, secondo anche loro definizione, ma ogni tanto lo ritrovo in vari paesi del terzo mondo, cinema iraniano, cinema cinese. Cioè, Roberto Rossellini ha lasciato dei semi che molti hanno raccolto, il suo cinema, il suo modo di farlo, e anche il suo modo di farlo povero, ma madido di funzione, di contenuti. Quindi credo che Roberto Rossellini sia ancora vivo con la sua opera, e la sua opera sia molto viva. Allora faccio una domanda al Renzo Rossellini uomo, anzi a Renzo Rossellini figlio, dato che hai il nome dello zio, magari forse questo ha dato fastidio, e allora me ne approfitto per chiedere quali sono le cose che potrebbe rimproverare a suo padre, dato che tutti noi siamo figli e tutti noi abbiamo qualcosa da rimproverare ai nostri genitori. Questa è una curiosità. Guardi, rimproveri a mio padre di essere stato troppo generoso, cioè di aver dato troppo, di aver dato anche quello che non possedeva. Mio padre è un uomo che si è indebitato per aiutare gli altri. La sua generosità era e stata in fondo una cosa che l'ha fatto morire povero, e quindi io da lui ho ereditato non soldi ma solo la sua missione. Quindi credo sia un rimprovero da figlio, ma devo dire, fra l'altro, è un rimprovero che è riconoscergli un merito. Un ottimo cristiano. Tutti ricordano i Rossellini della Resistenziale, eccetera, però l'ultimo film che ha fatto è un film sul Messia, che fece scandalo all'epoca quando è uscito, negli anni 70, perché lui ha fatto un Gesù senza fargli mai fare un miracolo e facendolo nascere e morire ebreo, come è stata la vita di Gesù, e questo dette un po' fastidio alla Chiesa. E poi, ma alla Chiesa danno fastidio molto spesso se uno non racconta le cose come volevano loro. Cioè, infatti il film più censurato di mio padre è un film su San Francesco, il Francesco Giurare Dio, 11 minuti di tagli ha avuto in censura. Ahimè, il tempo in radio è tiranno, però volevamo strapparle ancora un commento, visto che parliamo di cinema, visto che siamo freschi di Oscar, quindi cosa ne pensa di quest'Oscar a Sorrentino e alle Grande Bellezza? Beh, io sono contento che Sorrentino abbia avuto un Oscar e che l'Italia abbia avuto un Oscar. Dopo tanti anni, tra l'altro. Dopo tanti anni. Il film non è il mio film preferito, devo dire, né di Sorrentino né dei cinefilm italiani, ma questo non vuol dire niente, questo è un parere personale da cinefilo. Certo. Avrebbe voluto far meglio. Quindi è un rimprovero che gli fanno in tanti, ho letto varie critiche di diversa natura, quindi in tanti lo sostengono. Beh, a me fa piacere, se fossi Sorrentino mi farebbe piacere ricevere questa critica, perché vuol dire che se non è uno dei miei film migliori posso fare di meglio, vuol dire che magari posso avere un altro Oscar fra un po', quindi sarei felice di avere ancora dei margini di miglioramento. Questa felicità veramente chissà se si sente, anzi dovrebbe passare per le onde radiofoniche, ma è veramente un'emozione stare col maestro Rossellini. E allora mi chiedo, la musa la sappiamo, qual è la musa che l'ha portato in giro per il mondo, ma allora quale buon vento l'ha portata qui a Bruxelles e ci ha permesso di incontrarla? Dunque, Bruxelles, capitale d'Europa. È a Bruxelles che è nata una fondazione che si chiama Genesium, però da Genesi, ma Genesi dell'idea, Genesi del pensiero, Genesi della cultura. E quindi, quindi sono stato invitato qua dal presidente della fondazione Genesium, che è qua dietro di voi che cammina, dottor Granclou, che è stato fra l'altro un produttore cinematografico e produttore dell'ultimo film di mio padre. Quindi è un'amicizia di lunga data? Di lunga data, sì. Bene, allora noi ringraziamo innanzitutto la Monte dei Paschi di Siena, che ci ha permesso di poter incontrare la Fondazione Genesium e ovviamente il maestro Rossellini. In chiusura, abbiamo raccontato tante cose, però brevemente un messaggio, una parola ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Bruxellando. Amici di Bruxellando, voglio dare una grande lezione. Ogni tanto, parlate italiano, incazzatevi, non sopportate niente, sopportare è una colpa, bisogna ribellarsi. Arrabbiatevi, è un gran valore, credo che sia anche un valore estetico la rabbia. Cioè, vedo grandi affreschi di Giotto, ma di Michelangelo, vedo ogni tanto che sono un po' incazzati là dentro e trovo che sia un valore. Quindi arrabbiatevi e dite no, imparare a dire no. Posso tradurre la rabbia con indignazione? Va bene. Rimanere indignati? Beh, se sei cattolico fa bene a dire. Va bene. In tal senso, insomma, potremmo fare veramente anche un'altra puntata di Brussellando. Ringraziamo il maestro Rossellini ed eccoci qui, siamo ancora in compagnia di Roberto Rossellini e degli amici che hanno portato Roberto Rossellini a Bruxelles, tra i quali Jacques Grandclaude e Marie-France Delobel. Renzo Rossellini. Ecco, vedi, perché ora a furia di ascoltare magari mi sbaglio anch'io. Quindi... No, cioè non è un errore, perché questo legame fortissimo tra il padre e il figlio, insomma, è assolutamente normale. Ero ancora veramente assorta da quello che mi raccontava Jacques poc'anzi, quindi sono molto felice, cambieremo lingua, quindi passiamo al francese, perché Jacques Grandclaude, presidente della Fondazione Genesium, come vi raccontava prima Renzo, è amico di Roberto Rossellini da tanto tempo. Donc Jacques, comment est née ton amitié avec Roberto Rossellini? Alors, comme je disais, comme il fallait faire ce film sur l'ouverture du Centre Pompidou, l'objet de l'État était de faire un film pour montrer que ce n'était pas ce que disaient les journalistes français. Donc il décide de faire un film, donc il nous invite à réfléchir sur ce projet, et nous recommandions de Rossellini sur le plan du cinéma que nous faisions en fait. Il faut savoir que notre communauté, on avait le matériel, c'est-à-dire on avait tout. C'était un peu un décor à la piranèse avec des graphistes, des costumiers, donc c'était une usine en fait. Et on était au cœur des Halles parmi les prostituées. Et le jour où ils sollicitent Rossellini leur dit « Centre Pompidou ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est le producteur ». Donc je rencontre Roberto Rossellini à qui on me présente, il avait 70 ans, moi j'en avais 40, donc la dimension était non seulement au niveau de l'âge mais de l'admiration qu'on lui portait. Donc j'étais très, très intimidé. Et il se trouve qu'il ne m'a jamais parlé de cinéma, ni du Centre Pompidou. On a parlé que de la Renaissance, qui était déjà mon obsession. Et dans ce contexte-là, et de Saint-François d'Assise, parce que j'ai travaillé avec l'abbé Pierre, et lui, Saint-François d'Assise, le concernait beaucoup. D'accord. Et en parlant de la Renaissance, il me dit, écoutez, si il y avait eu des caméras à cette époque-là, j'aurais été celui qui aurait filmé tout. Et donc, de fil en aiguille, on se comprend si bien que, à l'issue de la conversation, il dit à Yvette Mallet, je travaille avec Jacques Grandclaude. Donc il m'a choisi en fait. Et m'ayant choisi, je le raccompagne à l'hôtel Raphaël où il habitait, qui était pas loin, et je ne trouve pas ma route. Alors il est complètement, il commence à se dire ce qui se passe, et je m'arrête auprès de l'Arc de Triomphe et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un grand problème, c'est-à-dire que je peux pas. Et nous ne pouvons pas travailler avec vous sans vous filmer au travail. Ah, il me dit, écoutez, ça va me gêner, tout ça. Puis, pourquoi? Je lui dis, écoutez, on a parlé de Michel-Ange et que vous l'auriez filmé. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'est le cinéma, quelque part. Et au niveau du cinéma, c'est quand même miraculeux de pouvoir travailler avec vous. Donc, je ne peux pas ne pas vous filmer. Et alors il dit oui, mais vous allez nous gêner, tout ça et tout. Et on avait beaucoup de films scientifiques, terrain sur lequel lui était toujours très poussé. Et je lui dis, on va vous filmer comme un insecte en fait, vous ne verrez rien. Et alors il me dit cette phrase incroyable, il me dit, écoutez, si c'est vous l'entomologiste, je serai l'insecte. Et à partir de là, on l'a filmé tout le temps. Et jamais il a été mécontent. Et alors, il était tellement content de cette histoire qu'il a voulu que j'aille au Festival de Cannes, où il était président du jury, et il a organisé un colloque, et il m'a dit, on va filmer le colloque. Donc, on a filmé le colloque. Donc, ça veut dire que nous avons entre les mains, comme dit Renzo, le testament de Rossellini, à savoir son dernier film, comment il l'a fait, et quelles étaient ses dernières paroles avant de nous quitter, quoi, vous voyez. Donc, tout ça est complètement inédit. Mmh. Donc c'est le fonds d'archives de la Fondation auquel Renzo a ajouté l'ensemble des siennes, et c'est le plus, en fait nous avons à Mons le plus grand centre d'archives sur Rossellini au monde, car il n'y en a pas d'autres comparables, vous voyez. Bien sûr. Et les archives Carenzo Rossellini sont inimaginables, tellement elles sont importantes à un degré qu'on ne peut pas soupçonner. Tout à fait. Voyez, et c'est ça qui a fait que la Fondation Genésium, c'est le socle de la Fondation Genésium, ainsi que la référence scientifique qui est la critique génétique que nous a transmis Pierre-Marc de Biasi, qui est l'ancien directeur du centre de recherche qui s'occupait de la critique génétique en France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé en voyant Roberto Rossellini au travail? Alors je vais vous surprendre, parce que j'ai reçu des lettres des réalisateurs de La Nouvelle Vague qui me disaient qu'il fallait pas que je travaille avec lui parce qu'il se mettait en colère, il méprisait les gens. Et nous avons rencontré un monsieur, tout d'abord d'une exactitude parfaite. Rendez-vous 8h30, 8h30 au pied de l'hôtel. Voyez, d'une courtoisie extrême et d'une maîtrise de la technique que même Nestor Almendros, qui était le directeur de la photographie, qui avait travaillé avec La Nouvelle Vague, n'arrivait pas à ne pas admirer, quoi. C'est-à-dire qu'il vous dit, en plus il travaillait qu'un zoom qui télécommandait. C'est-à-dire il était ici, la caméra était là-bas, et c'était relié avec le zoom. Et on répétait, et il disait, on part, et il disait 250, 300, 350. Et il savait, sans moniteur, exactement le cadrage qu'il faisait. Vous voyez, et on l'a filmé en train de faire ça. Donc il est pas du tout ce qu'on a dit. Parce qu'en fin de compte, tout le monde pense Rossellini, penseur certes, philosophe certes, mais technicien incroyable. En plus, il faut savoir qu'il n'avait pas fait de scénario. Donc ça veut dire qu'il improvisait chaque plan. Donc il est ici, on regarde tout ça, il dit bon, bah, écoutez, je vais mettre la caméra ici, il dit à Nestor, on va pouvoir mettre quelques lumières, après on répète, et tout d'un coup moteur, et on y va. Vous voyez, ouais. Et ça c'est le voir travailler de cette façon-là, c'est surprenant. Alors, on n'a pas le temps malheureusement cette fois-ci de parler de l'activité de la Fondation, que je vous assure, au moins pour moi qui j'aime l'histoire, est exceptionnelle, parce que un des buts c'est quand même de garder la mémoire, ce que peut-être on fait plus parce qu'on court un peu trop, il y a trop de vitesse dans notre monde. Mais je voudrais quand même donner la parole à l'administratrice déléguée, Madame Marie-France Delobel, à laquelle je voudrais poser une question très simple, de nous raconter un peu les activités principales de l'association. Même, pour introduire les thèmes dont on va parler dans quelques semaines. Voilà, donc la Fondation a été créée il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en décembre 2012, et reconnue d'utilité publique, et nous avons, disons, trois pôles d'activité. Nous avons le premier pôle qui est la sauvegarde des archives, dont Jacques Grandclaude vient de parler, et Renzo également, et en fait, pour sauvegarder, vous savez bien que les archives passées sont dans un état souvent détérioré, donc nous devons les restaurer et les numériser. Voilà, pour qu'elle soit pérenne. D'un autre côté, le deuxième volet est la recherche, puisque avec ces archives, nous voulons absolument donner un autre regard sur l'œuvre en elle-même, puisque on s'appuie sur la recherche génétique qui a disons, décalé la recherche de l'œuvre à l'idée jusqu'à l'œuvre, c'est-à-dire le cheminement de la pensée et de la création. Et le troisième pôle, c'est qu'avec les recherches, il fallait les transmettre au plus grand nombre. Et disons que très prochainement, en 2015, nous organisons, disons, les premières rencontres européennes sur les processus de création. Nous profitons de Mons, qui est capitale de la culture, capitale européenne de la culture, en 2015. Et donc, nous avons un partenariat avec l'Université de Mons, qui est en même temps et membre fondateur et aussi administrateur de notre fondation, et nous créons les premières rencontres, et ça je vous en parlerai plus tard. Tout à fait. Ben alors. Ouais, c'est très important, je suis très content, mais est-ce que dans la fondation il y a aussi l'idée de coopérer, vu qu'il y a l'université, de coopérer avec des écoles de cinéma pas seulement en Belgique, mais aussi en France, en Italie, d'ouvrir les portes aux cinéastes futurs. Alors, je vais vous dire, c'est même beaucoup plus que ça. C'est que nous sommes basés en Bruxelles, à Mons, enfin nous sommes basés plutôt à Mons, mais incontestablement, déjà nos membres fondateurs viennent de toute l'Europe. Et qu'en même temps, si vous voulez, les recherches et les documents viendront de partout. Donc si vous voulez, il n'y a pas de restriction aucune. Et bien sûr, dans le cinéma, nous allons avoir des collaborations avec les cinémathèques, mais aussi les écoles de cinéma. Parce que nous voulons en même temps avoir des partenariats avec les étudiants. C'est très très important. Donc déjà aux rencontres, si vous voulez, il y a trois volets, mais je ne vais pas non plus être trop longue, mais il y a un volet cinéma, il y a un volet architecture, que nous, avec la collaboration de la faculté d'architecture de Mons, et nous avons un volet art plastique. Et bien sûr, nous travaillerons avec les, non seulement les universités, mais avec les écoles de cinéma, bien sûr. Mais ce qu'il faut bien préciser, dans la fondation n'est pas une fondation liée au cinéma. Il se trouve que nous avons les archives de Roberto Rossellini, mais on aurait les archives de Picasso, on aurait commencé sur la peinture. Ouais. Donc la problématique de la fondation, c'est ce que vous gardez les archives, aussi bien les papiers, les objets qui concernent la naissance d'une œuvre ou le trajet créateur d'un auteur ou d'un scientifique. Donc il se trouve que pour transmettre les savoirs acquis à travers ces archives, vous avez trois moyens en fait. Vous avez le son, comme je vous parle, vous avez le livre et vous avez le cinéma. Le cinéma, non pas considéré comme une œuvre, mais comme un trapasseur de la mémoire. Ce qui est tout à fait différent. Et vous aurez maintenant le numérique, voyez. Donc la fondation, elle couvre tous les domaines de la connaissance et de la création, y compris l'économie. Y compris l'économie. Car il est certain, dans l'hôtel où nous sommes, il y a deux personnes qui les ont fondées, qui est Pélisson et Dubrulé. Il est certain que le groupe Accor, il n'est pas né de rien. Voyez, donc si on veut travailler sur le futur, à savoir comment créer des hôtels, il faut faire la genèse du groupe Accor depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ça le rôle de la fondation. C'est non seulement de travailler, bon là il se trouve que Rossellini c'est le cinéma, mais ça aurait pu être autre chose, mais en même temps de travailler, et ça c'est à préciser aussi, il y a les archives du passé. Mais aujourd'hui, il y a des grandes choses qui se passent et on espère que notre savoir-faire, à savoir comment on le transmet, on travaille dessus, qu'on puisse travailler sur la naissance, je ne sais pas moi, d'un stade, vous voyez, ou de quelque chose de nouveau qui fait qu'il faut que la mémoire le conserve et pour que le conserver, il faut le filmer, quoi. Parce que le filmer est le seul moyen de le pérenniser. Ah oui, il faut contacter aussi Bill Gates. Steve Jobs n'est plus là, mais bon, voilà, quand même, je pense que Microsoft et Apple ont transformé la vie au quotidien. Oui. Est-ce que la question c'est ça alors? Est-ce qu'on peut dire que l'idée de fond de la fondation de tout ça, c'est la construction de Europe 2.0 à niveau de culture? Ça peut être ça. Mais l'Europe s'est constituée avec, disons, je dirais, le papier. Elle s'est constituée à travers les guerres, vous voyez. Et donc, le 2.0, c'est la communication, en fait, c'est la communication. On passe par le 2.0. Mais il est certain que même travailler sur la genèse du 2.0, comme par exemple le Mondaneum, que Gogol a reconnu comme l'ancêtre de... De la plateforme, mais non. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des genèses intéressantes, voyez. Ouais. C'est ça. Il faut bien savoir que la problématique aujourd'hui, c'est de sauver les mémoires. Et vous avez raison. C'est-à-dire que le 2.0 peut tout d'un coup faire disparaître toutes ces mémoires-là, puisque tout se fait en numérique et qu'il n'y a plus de traces. Mais en plus, le problème de la fondation, c'est travailler sur les traces et en constituer. Voilà, si on peut la résumer. Si je peux dire, on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et moi, c'est ça que je voulais dire aussi. Avec le numérique, les problèmes les plus sérieux, moi, je pense, c'est qu'on peut pas, on peut perdre à tout moment ses traces parce que si la technologie évolue, mais on n'a pas les moyens de comprendre où elle va, on ne peut même pas reconstruire notre futur. Si vous préférez, Roberto Rossellini avait une démarche dans sa tête. Tout d'abord, il fallait apprendre, comprendre et transmettre. Et la plupart du temps, on transmet sans avoir compris ni appris. Et ça, c'est, on peut aussi l'appeler sagesse. Parce que... Absolument. On peut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais donc, je vais vous remercier Jacques-Claude, Madame Delobel, pour la fondation. Et nous, de notre partie, de notre part, qu'est-ce qu'on va faire? On va transmettre ça, en espérant d'avoir compris ce que vous avez dit. On va transmettre à notre écouteur de la radio et on va se lancer dans notre voyage. On va continuer notre voyage. Si je peux vous permettre, si un jour on devient très, célèbre, Georges et moi, on peut déjà vous offrir nos podcastings. Donc, ils sont tous là pour comprendre la jeunesse de Bruxellando. Mais je rigole évidemment. Je vous remercie. Ed eccoci di nuovo qui, siamo noi che ringraziamo Maridì e Georges Oran, in particolar modo Daniem qui della regia, che vi saluta, vi ringrazia per essere stati all'ascolto e vi rinnova appunto l'invito a seguirci costantemente anche sul nostro sito radioalma.eu/bruxellando, dove troverete tutti i podcast delle trasmissioni e una ricca selezione di eventi culturali selezionati per voi. Grazie ancora per l'ascolto e a martedì prossimo.